può prepararsi magari nel mentre lui sta già iniziando a, a posizionare il pavimento col collante, nel mentre il manovale si organizza e si prepara l'altro stick, sai com'è? Vai, fa più veloce, ma se lui ci fa da solo, magari quasi poi sia uno molto bravo e veloce. Ma che cosa ci fa? Ad esempio il Biano, una gaima, no? Dico la gaggata, sì, è quello, Non deve vedere lui questo. Comunque, quando ci avrei farà proprio, guarda, tu mi vuoi il Biano ci fa il capo. No, sarebbe durato massimo 2 giorni qua, non di più. Mettere i tubi bene dritti, mettere 2 tavole, iniziare lì a tirare un paio di colpi di cemento in modo che si bloccano bene. E poi ci sono da bloccare 3 scatole, riprendere qualche traccia che bisogna allargarla un po', ci passa qualche tubo in più. Ma diciamo che ci sono cagati, sta fare traccia, non è che ci voglia molto. Un po' d'impatto, ricordi una maletta e si è a posto. Perché. Auto di scatole magari il pavimento, mettere a livello giusto i tubi dell'acqua, gli scarici, tutta questa roba qua. Poi una volta ci fa quello, ci fa il piano giusto, ci tappano i tubi bene, il gioco è fatto. Si è vecchia maglia, ma poi vuoi sentire, ma domani sei vicino di maglia. Stiamo parlando del Calvino, giusto? Sì, già. Dai, buonasera anche a lì. Buonasera, Frai. Però ho visto un Mario, fa un cane di piedi, sempre in matragliato. Ma è possibile questo microfono? E dopo se vuole un ciao, dopo a farle fa, poi non li vedi. Se tu mi tragliato arrivi. È un bel forte, quel microfono è un bel forte. È mai troppo soffia, è inutile se non si mette a parlare, per essere ben sentito, non si va a strillare. Io a me mi pare che non sono troppo bene, poi ognuno fa benissimo di fare ciò che crede. È positivo, dai. Cappa, vabbè. Vuol dire, lo vuoi usare così, avanti già. Buonasera a tutti, da doppio Luca. Ciao Mario, ciao a tutti gli altri amici. Avanti Luca. Ciao già, avanti Pofus, Fututus. Cappa, è bello che Mario quando parla c'ha la voce grossa a me, perché si sente anche per il cappello. Ti trago il male. Il microfono di Pokémon Uruguay. Ma non si può vedere l'ignorata di Savoci, invece di essere istituta, quando aveva creato il Rai, stava una parte dall'altra, e si capirà un po'. Comunque confermo, c'è la tindica di Giovanni Mistero. Va bene, avanti così. Sì, Gaffi, è la tindica di Giovanni Mistero. Per me. Però da quello sotto, quella parte parecchio mica a me. Poi ti va a fare un servizio quello grande, come dicevo io, e ti cerchi le frequenze, ti dice vedi più dove scende, non ce l'hai. Comunque parte dal 1 sotto fino al 34 sotto. Però guarda, se lo sai come usarlo non c'è problema. Poverino, come farò? Devono anche insegnarmelo, giusto? Vabbè, vabbè. Ci sentiamo, si sta facendo da sbrigare qua. Continuate pure a chiacchierare, prima di andarmene vi saluterò, sta? Guarda pure, ne dietro qua. Guarda io con la parete, guarda, tale guarda. Cazzo già, andà bene. Avete parlato in due comunque. Mi allora, mi ha detto. Ciao Mario, ciao a tutti, vediamo perché ascolta, c'è il passore che non si rompe. Io prendo la voce per le calle. Oh Mario, delle... Ma io ti ho detto che mi chiedo, sì. Te lo conosco, te l'amo che è confondibile voi. Buonasera avrai, chi sei? Va. adesso mi sfugge il nome, vabbè, se lo vuoi dire me lo dici tu, adesso io non lo dico per non fare cascetta come fanno tanti. Ti vuole far arrivare lì, ma ti volevo chiamare con un altro nome, non mi venite. Va bene Natalia, non so se mi hai sentito prima e che smitter c'hai, e pensava la radio e anche il segnale, è differente da come ero prima a questo qua. Sì, sta arrivando 9:20 qua, alla luce con lo smisso, la radio 5 smisso. Ok, va bene, va bene, va bene. Dimmi se ha variato la radio, se ha abbassato. Sì, questo volevo, ma abbassare la radio. Sì, però rimane sempre pulita, comprensibile, sì. Sì, però basta, un pochettino più altino vorrebbe, là. Vabbè, allora avrebbe... No, così è già troppo, confermi. Ah, va bene, non è fracassona, no. È una voce con una bella presenza, non diffusa, là. Ok, ma non è quella voce fracassona, come ho detto poc'anzi al giro che c'era. Spero non si sia offeso per averle detto la verità. Ma no, è un tipo normale, niente, non c'è niente di fracassona, già lo so che sì, le voci fracassone non ti piacciono. E quindi lo so quando ti devo dire che va male o che va bene, non c'è problema. Ma io non mi sono preso, non me la piega niente a me di quello che dice la gente. La mia motivazione è questa qui, che non le piace, non ascolta, tutto lì, è quello che ti faccia. Non è che mi muovo un rugo ancora, ma questa va bella volte, no? Hai ragione Mario, però non ti dico di metterti niente in gola, ma se ti muore di tapparete di fuori da Reci, ma io vedi là che ti intendere ancora di più, perché sei costretto a stare ancora le volte. Non voglio offendere nessuno Mario, io ho detto solo per come era la radio, che forse tu non hai occasione di sentirti a distanza come si sentono gli altri. La voce fracassona, almeno per come la penso io, non è piacevole all'udito umano, ok? No, Mario, tu c'hai ragione, però io ho la voce grossa, il microfono è quello che è, giustamente succede che la voce esce così, non ci posso fare nulla. Almeno l'unica soluzione sarebbe tagliare la radio e non parlare più. No, così non va bene. Sono altri metodi che smettere se uno vuole. Perché hai visto come lo faccio io, prima era troppo alta la radio, l'ho abbassata, tranquillo e puoi giocare, dove non arriva la potenza arriva la scienza, quindi armiamoci e partite. Signori, vi saluto tutti, cordialmente e circolarmente, grazie per essere cordiale QSO, buona tarde, ciao ciao, devo sapere, ciao. Buona tarde, buona tarde, alla prossima Gianni. Ho vissuto alle prossime anni, comunque non è successo niente, non è niente di preoccupante, tutto qua. Ci sentiamo, là, buon proseguo di serata, buon tutto, ce la riascoltiamo alle prossime, vai un poco. E a ciao Gabi, ci sentiamo alle prossime, avanti là però. E vado avanti, ti telefono. Ah, mi telefono? Sì. Aspetta, Natalia, ti telefono, se vuoi. No, io ho messo. Telefono a me. No, telefono a me, Alia, telefono a me. Se sono più geloso io se non mi telefoni. Col telefono però. Faccio ciò come la fa. Sì, sicuro. Ma come ce la devo fare cosa? A parte voi c'è qualcosa, vediamo se entra. Sì, è bello che partire lì, allora mi sono appassionato al vivo. A me, non ci dici Natalia, se pensate che vorrei attraverso qualcuno ci sei mai riuscito finora. No, e allora già stato in alto veramente, cavolo, ma quello è un po' tranquillo. E qual è il problema? Mica vedo che ci sono tutti gli altri, io me ne figlio l'altro di macchina, me lo posso regalare. Se non tutti muore c'ha un coso, a me uno me lo regala. Io la vengo a fare quello, cazzo, dai. Là è guasto a fare questo, mi raccomando di tutti i giurori. Ma in tratti la Ingo, è meglio chiudere il battente e non se ne parla più. E poi facciamo il gioco con la calzetta. E fai un TV. Natalia. Oia. Non c'è detto prima di tutto. Ti stavamo chiamando poco fa, c'era Fabio che era in difficoltà con il presidente. Volevamo chiedere a te tu che ce l'hai. E cosa c'è da fare? No, no, non sapeva regolare la calibrazione delle stazionali, per regolare. Siccome lui c'ha un unico strumento, adesso c'è un tasto di calibrazione, quello dovrebbe avere un interruttore rosso. Come ce l'ha il presidente la calibrazione? Io non me ne ricordo adesso. Quello di affrontarsi in attacco, schiacci e chiudere le stazionali. Infatti l'ho detto così, perché quindi c'ha un rotativo con la calibrazione, adesso mettilo nel limite del rosso e tu gli incomuti, chiedete un tastino, dice il muro, non lo so, non si ricordava, se no la moto che non lo usava, tu anche lo conosci? C'è scritto cal, c'è scritto cal, poi, anzi poi c'è scritto SWR. Sì, sì, quello l'ha detto, non lo immaginavo anch'io, però la computazione come gliela dai? Ah, quello è bello, ma che cambio è quello che è così? No, perché stava arrivando male, arrivava qua e accanto a me arrivava a Santiago da 7 e arrivava 9-10. Io gli arrivavo a Santiago 5-7 a momenti. C'era problemi di stazionare sicuramente, però non riuscivo a leggerle. No, ma se accanto a te era all'altro col carro davanti a me in corso, mi si piace, non era la roba di stazionaria. No, ma non l'antenna, può essere il cavo in corso, perché il cavo dice c'è cioè, 2058, non so da cantare. Il cavo in corso, lo volete? Deve avere qualcosa in corso. Perché fino a ieri stava uscendo la bomba, arrivava la bomba, perfetto. Oggi di due fu così. E allora non mi ricordo. E il cavo in corso, o di dare buco, o se mi vedo un gau. Quindi mi dà l'inizia. E io ho tanti problemi, mi viene dentro là, per farmi. No, la salita la stessa cosa, io ero col portatile, ho detto cazzo che è strano, mi sento così bassi a tutti, e c'avevo solo la lunga attaccata e non era attaccata al coso, al barilotto. Penso che stai dicendo qualcosa solo, l'audio. Era col portatile, dicevo, basso il QRM, tutto basso, i segnali sentivo tutti in basso, ha detto ma strana, eppure riusciva a entrare lo stesso. Io, vabbè, l'antenna mi faceva, ma non è come ti cambiare l'antenna attaccata, è via. Col cavo non si può attendere di sentire e di trasmettere bene. Magari è più facile sentire che trasmettere. Tanto io di radio ti ascolto sempre male, boh, c'è un passaggio. A me? Boh, tutto blu blu blu blu blu. Non so, guarda. 1, 2, 3, 4. Non sento mai una sabattona, uno per stanito, quindi datali con questo. Bene, il radio sto parlando, non mi segnale, il segnale è buono, è fortissimo. No, io mi radio a farlo, non mi segnale, mi radio. No, veramente a me, ma i figli mi hanno detto che mi hanno sermetto per te. Non ho capito niente di quello che hai detto, sei troppo forte in radio, cioè non è comprensibile. Addirittura troppo forte. Troppo forte, cioè non è comprensibile, o sei troppo attaccato al microfono, non so io. Guarda, c'è la radio, c'è tu, c'è anche il tono, non c'è scritto tono. È uguale, uguale, uguale. però la forma, tutto quanto uguale, la retina è che cambia appena appena, ma la forma tutto quanto è uguale. Ma che colore? Via. Non è cucciolare, è il ferro che è coperto di una carta così, Marco ne ha 4 o 5 che sono tutti così, ricopre i vestiti così. Sì, perché non hanno fanno così, non li mettono, non li mettono, non li mettono, non li mettono, non li mettono, con un legno chiaro, oppure con un legno scuro, tipo... così. E infatti glielo metto giù, se me lo faceva uno che glielo pagava, non me la metto che non c'è tempo di nulla. Ma già si appena, gli ha fatto il tastino, gli fa il tastino, tutto quanto lui si fa. Lui praticamente è uno sugar me. Praticamente lui ha preso tutta la basetta, la copiata da un microfono sugar. Ma qui non sa, merda. No, che me lo stava dicendo lui l'altro giorno. Mi ha fatto vedere anche come ha fatto la basetta, come l'ha costruita. Non sapevo manco come l'ha scelto. Gli ho detto pure io lontano, avevo lì. E ho visto io, già, è un sacco, no, lo sugar è una linea diversa. Lo sugar è tonto, tipo il 2. Quindi è tipo 7.090 più 5 più 4, quindi della linea del terreno più 2. Oh, Anto, ma io non ti sto dicendo la forma, io ti sto dicendo l'interno, la basetta, tutto quello che l'impianto che fa. L'interno è tutto del terreno, sono là, completo da lo sciure. Ma lo sciure comunque è nato un amplificato, Ascolta, ti volevo dire, ma non è che quel tipo si ha preso la mia mazzetta, no? La tua mazzetta è quella con la fissa rossa, ce l'ho io. Capo. Non ti preoccupare, lui. No, come poi ci siamo ma lui non ha lasciato la mazzetta in Antonio. Ma ti volevo chiamare, c'è la di Tumare che stava volando per non disturbarlo. E niente, no, Antonio, te l'ho voluto chiedere, non si sa mai che ci aveva fatto... Se aveva abbigliato la cosa mia, dai. Guarda, secondo me si è lasciato anche la pelusa, tutto. Apri la pezzo lì, Popo! Ha detto Popoco! Popoco, vuttudo. C'è anche Roberto, Gappa, gappa, Roberto! Gappa, io me lo... Che fredda! Mario, non sai cos'era il problema di Antonio? Qualche riflessione, una risposta di qualche palazzo. Sì, lo stacco di a volte che ti intitolano questa cosa. Andava, va bene, è interessante che ci senti bene a tutti. Dai, quando sono con il dito con la salvo, come mai tutti? Ti molto più basso di prima, la voce come? Va bene. È chiara, dico, perfetta, perché abbiamo sfruttato tanto quel prodotto della bomba, non sento più quello che faceva con lo scatto neanche. No, ma questo qui non è fa, deve essere che con quello tirato, un basso spinotto, blu. Sta parlando pure di Mario. Mario? Là, a un po' di strada con mosso fuori lanciato. Ho fatto l'altro apparato, dai, stacco questo qui e vado nell'altra stanza, dai. Vado su questo fatto che mi sto sballando la schiena, ci sentiamo solo un attimo, dai. Cazzaga, a voi se mi viene più comodo non posso andare ancora adesso. Ma devo soltanto attaccare, ma io non posso attaccarlo con l'altro capo. Attacco il coso messo rapido, quello è rapido, va tutto bene, un attimino, dai, riponete voi. Cazzaga. Guarda mi segnala adesso, così dopo mi dà il confronto, come sono adesso la tua già? Allora, 1, 2, 3, prova, 30, 40, 50. Che molto quadrato, sono tra le 9, 5, 9, 10. Ecco, ma non vi guardi questo quando dico non molto quadrato, no? No, a me non funziona con 10, più con valenza. Siccome se mi sei dimenticato, se lo ricordate. A chi la fa lui, sono l'avuto a bisogno del dato mondo, Roberto Quadrato, Roberto Quadrato. E come se non ci vediamo così, dovevo chiamare Roberto Quadrato. Allora ci vuole un'altra prova, però c'è un buco, di due cacchetti fa prova. Io l'ho accoppato adesso, no? Ma quanto adesso? Non lo dici. Ok, adesso fa parlato così mi dai il contorno, dai. Adesso cosa è di culo, lo mette, già, andiamo contro, lo mette lo cavo di cuoio. Cioè, non so, ha capito lui, ma non era facendo il culo. Ti bisogna dire il nome, no? Non è che lo sa che sei tu, è quello, eh. Ma vabbè, non è successo niente. È come qui New York, ripara Ruggero, parla. A volte parte in tre. Ma non correrò, non si mai in cuore. È finito! Avete finito, vi rompe i coglioni. Ma sì che sono attimo, chi è che vuole parlare? Avanti. Martina, scendo la tua azione, faccio la tigre dentro. grave giù, mi chiamo sai che difetto che c'ha. E mi sono fatto in riga, sul ponte in riga, ti allargi, fa quello che vuole, non me la frega niente a me. Capito? Io me ne prendo un altro, non mi metto problemi per quello. Però manca il tutto di mettere il garage che c'è già la macchina dentro, più c'è la cacca roba e quindi non me ne frega niente. Scatto, no, c'è la presa scatta, non c'è pure. Non so capito se ce l'hai, vuole se bisogna la presa scatta lì, certo che la voglio. Ma come questi sono la presa scatta, ma sono la presa scatta con la sonda. No, vabbè, dai, io fa come vuoi, da, basta che la contento. Ma per con la sonda è normale, se tu lo sono te la fai tu, bisogna già fronte, però se dipende la presa lunga la fai tu. Dai, fuori di lì, guarda che non ti c'è lì, poi ti porti già quell'altro cesso che c'è in garage. E poi cosa hai fatto? Ci vuole solo dei finali, io ci vuole altri, io guardo il tetino nel buco e le cose si apre. Ma che tu li hai messo al garage, che gli hai fatto, mi sta già rompendo. Gli apri un mese, mi sta assillando, prendo via. E tu non lo metto, se c'è già un baule a casa. Uso le casse solo per la verità, perché è vero, so che la Luca già l'ha visto. Le casse che c'è col televisore le uso solo per il DVD, è buono, non uso per l'altro. Ma il televisore non lo usare? No, il televisore c'è un picco, c'è un fizzo. Quindi vado da lì e ascolto l'altra parte. Ma tu ti metti a dire, Luca, come lo ascolti il televisore? Dillo tu. Meglio. L'ho vista. Cavagava. C'era due figli, un figlio, un ragazzo è buono, un professore di filo che è collegato al DVD in bar. Allora collegato dal DVD un amplificatore dello stereo, c'è un bagno, c'è un stereo di QD da 15 watt, l'amplificatore di quello, lo stereo per le casse. E quindi in pratica con quello stereo lì, amplifico il DVD anche al televisore. Basta. E poi da lì posso fare anche il microfono amplificato se voglio. Gaffa. Andrà bene, sì, andrà bene, spiego per me, va. Che mi stavo chiamando a cucchia a capicolino. Sì, mi sono dato due fette di affetti con la cipolla. Ega. Io sono fatto in sapura. La buona vita, la cipolla è un gioiello. Ma 30, 40, 50. E non ce l'ha. gamba, la gamba allucinante. Come mai? Ogni tanto mi sveglio, non mi sfuggi magari che fai durante la giornata qui. Ho un capo a fare un taccio, ma allucinante. Ti sei sdraiato già? Sì. Allora per quello, magari c'è una posizione, sei rigirito, prova a rilassarlo un pochettino e ti passa. Sì, non lo muove. Tirato un pochettino la testa del piede verso l'interno e poi massaggialo piano piano, già che sarà il mondo di crescita del corpo, perché ne vedo tutti i momenti nello sport che faccio io. Vabbè, dimmi Antonio. Dimmi a Fabio che io domani mattina quando sta con la mamma, dice che vai a presto e lo chiamo col baracchino su 14 e così vediamo, perché sono sicuro che lui ha problemi, nel senso, diciamo, non so se ne ha fatto un suo o se la ragazza è bella è quello, però la sera è piazzata e non c'è niente, l'ho vista stasera, questo è un altro cavolo senz'altro, se non è possibile. Fabio, ci sei ancora? Fabio, ci sei? Non l'abbia già chiuso, perché ho detto che tu debba... Antonio, tu come mi ascolti, Antonio, adesso? 9:10, sì, dagli 5. Adesso mi porta sulla macchina, perché arriviamo e quindi parlo con l'uomo gatto da lì, capito? Allora non mi compro il cavo, domani mi penso così il bacco, scendo 40 metri di cavo, attacco di 58, se il palazzo venga fatto dall'esterna e faccio prima. Dove sei tu adesso, Antonella? La solita posizione? Al corso, insomma. Ma dico, sempre lì, no, pensavo che sei cambiato casa adesso, la tua madre mi ha detto, non è così? No, ancora non ho cambiato, ma sono in cerca di scendere il cavo da mamma, tanto la parabola ancora non ho fatto niente, quindi non me ne frega niente, già mi dico 40 metri di cavo dei 58, mi faccio discendere fino a casa di mia madre, e poi che servizio si è visto, e così mi occupo di cavo del G8, lo conservo, lo sistemo e me lo metto da parte per quando sarò sopra. Ho capito che non bisogna andare qui, non vieni qua a spassare a tutti. No, ma sono a casa di mamma, lì mi sono tutto niente, ci salgo quasi, non tutti i giorni, ma per dire uno, due, tre giorni, quattro giorni. Mi diverto, se non ci sono io, c'è lì che c'è mia sorella che parla, per dire a baracchino, e quindi la utilizzo l'antenna, perché l'antenna così, lasciata da una parte così, che crea problemi dopo, capito? Si oscila e non conduce più. Ma dove abita tua madre? Mamma abita al primo piano, io c'è l'appartamento all'ultimo, quindi. Ma dove sta dicendo? No, dove c'è l'antenna, dove c'è la mattova a tubo, di lì abita tua madre. Sì. Capano, no, facciamo in un'altra zona, quindi viene la mattina di gol. Mi fate un cavolino, io già lo prendo, sa che costa poco, anche 5 centesimi al mezzo. Me lo prendo, me lo faccio io e se la bianco prima una sondina. E me lo collego anche in salone, poi quando entra al limite se sono io parlo di solo se sono entra la sorella, come la potevo. Guarda, ma stai parlando di parabole, ma stai parlando parabole tu? Ma parlo adesso di perché non se ne parla, spiega che sei mamma, poi al limite la parabola me lo posso anche parlare. Cioè, a parte che è già sallata, però non lo sto utilizzando. Ma no, dico, se stai facendo installazioni di parabole, e che io ne voglio prendere una, ne ho una grossa, la voglio far fuori, una 180 della Irtea, si sticchi primo fuoco, se la vuole qualcuno chiedi un po'. Chiedo, non c'è problema, ma comunque il problema sai cos'è, che di solito si usa massimo 80-90 sassari, una parabola così grossa va bene per i centralizzati, il discorso è diverso, se capita un centralizzato si potrebbe sperimentare, se in Petrovesina, se in Aurino, che ha possibilità di sguadagnare, proprio ce ne sono, perché è stato 1,20 m di diametro, quindi. No, la parabola che ho io è 180, ma 180 è quella che ti sto dicendo io, in alluminio a 6 sticchi, no, infatti dice, o ce l'ho per centralizzati o per qualcuno, tipo ghibi africani, senegalesi, niente così, che volevo vedere satelliti fuori posizione, che hanno necessità quelli iraniani, che hanno necessità di vedere satelliti fuori da Auschwitz, in altri gradi, solo per quella gente lì, se no non ti verrai nulla. No, è molto difficile, guarda, una cosa del genere. Si può fare un limite accontentare per un centralizzato, quello sì. Si fa un centralizzato, una centralina, si chiama quella e tu sei a posto. Tra Svolgni, capito? Se mi capita volentieri, in quella campagna, come ce ne so? Io volevo vedere mia madre, vedere il tuo mio amico. Oh, Massimo! Io volevo vedere mia madre, io abitare quella teglia. Vedere mia madre, io, amico, vedere mai parabola. Compra tappeti, sì, no, padre, mia madre, mia madre, i miei fratelli, i miei sorelli, tutta la mia la parabola. Comunque, Antone. Dimmi. Non sto scherzando quello che ti ho detto di gente di fuori, gente africana, gente russi, cinesi, che volevano le cose. Ma sai, la gente, amici miei che fanno impianti grossi, dicete di quelli, vengono qua a prendersi le posizioni, si scaricano la posizione. L'altro giorno me ne è venuto uno, voleva andare a Iglesia a fare un impianto, e questo qua doveva prendere, non so che satellite era, mi sembra Amos, un satellite israeliano, non so per quale motivo. Sì, ma la società che gli fa bene differenza, già lo sai, te li gradi. Sì, no, ma sto dicendo, noi qua tutti le guardiamo Birzia o al massimo Astra, però c'è gente che è appassionata magari a questa gente di fuori che vuol vedere la TV del Venezuela e deve andare su certi satelliti che sono molto più deboli di altri video, ci vuole almeno una 120. Se vai su certi satelliti di Astra addirittura non basta pure la 120 d'inverno. Non è Amos andare a pescare. E non ricordo più quando un cassetto che usa una blusa, non quello. I fuori onda che ci sono di canale 5, 3, 9, 6, 4, la Rai, si vedono con quella parabola, perché piace il motore e vedi tutto, capito? Vedi tutti fuori onda e te li puoi registrare, solo per quello lo usano. Ricordo che il canale porno, quello che è, che mandano, e certo, satelliti, stazioni, ce ne sono parecchi. Ma me lo sta dicendo, Antone? No, sto dicendo per gli altri, non per te, lo so che tu ce l'hai, eccetera. Però per gli altri non lo sanno, c'è una parola di mente per il tutto. Da est a ovest e nord, ce ne sono lì i canali, altri satelliti, ce ne sono quasi 300, se non mi ricordo male. Figurati, sono analogici, poi ci sono anche digitali, c'è poca roba. Ho deciso a pagare il tuo burro. Se ci sono le carte, non è problema per quello, basta pagare, quelli tutto. Ci sono la carta, quella per il tempo, quella per l'EDS, l'altra carta per i VHS, dove sono così porno, ce ne sono tante carte, sono mi sembra 5 o 6, forse anche di più. Quindi è stata la carta. Allora. Vabbè, mettendovi un, come cavolo si chiama, una parabolica con, come cavolo si chiama, il, mi viene, l'apparecchio per, lì ci sono, sì, però potrei farlo vedere quello che stai facendo tu, quello sono a pagamento. Sui spazzati la notte da mezzanotte a mezzanotte in punto, ti guardi tutto quello che ti piace. Il spazzato però un satellite spagnolo mi pare che sia, mi pare, è a 30 gradi è spostato, molto spostato, con una parabola a 120 ti guardi tutto quello che vuoi, da mezzanotte a mezzanotte in punto, fino alle 7 del mattino. Vabbè, ma senza pagare, c'è il, ma come si chiama, il decoder, così è. No, a gratis, il ricevitore normale, un ricevitore digitale, ci vuole, l'impulso, la frequenza, naturalmente devi caricarti il canale e te ne vai su quel satellite e ti guardi tutto quello che vuoi, da mezzanotte e mezza in poi, tutte le luci, a gratis. Vabbè, ma è sintati, poi se li vuoi a pagamento te li guardi anche subito, senza mai dubbio. Ma c'è anche la possibilità di guardarti, ti vendono un decoder adesso che paghi 69 euro, ti danno per 5 anni, ti danno la possibilità di vedere questi film con 69 euro senza bisogno di carte e di niente. C'è già il decoder incorporato, la codifica incorporata e ti abilitano per la ricezione di quei canali. 5 anni? 5 anni, 69 euro. Scappa. Oh, ti danno 5 film in tutto nell'arco del giorno, con la ripetizione dei film, però uno per il viaggio del genere. Vabbè, mica dura, che se ne va perdendo, scusa. C'è il tutto lì, c'è la parabola, vedi tutto, per dire, se vuoi guardare quelle macchine strane, io ho visto una volta, quelle macchine alte, volte alte, pure motocross, di tutto vedi, di tutto pesca, di tutto. Qualunque tipo di argomento, di qualunque genere c'è su satellite. Uno se ti vuoi guardare gli astronauti, il satellite della Mir, dove c'è la Mir, la sonda, cammai di buon visto, ti piace sport estremi, se ti piace il pugilato, se ti piace la cucina, i videogiochi, ci sono canali per tutti i generi, centinaia e centinaia. Ma vagava, io andavo allora. Come ho? Qui, dove l'hai saputo? tua o no? No, dimmi, io sono guarda, col cane appresso che è un casino, si è azzuffato, cosa del genere, quindi non so dire niente, la casa di mamma, e non ho saputo niente, dimmi. No, ora che sei saputo niente di quella cosa là. Ah no, ancora no, io guardo la sera che ieri si hanno cattato il cane, casa di mamma, e quindi non... Ci telefono con due atti là, e chiede quella cosa là. Vabbè, no, perché a me mi è sparito il numero là, il telefonino, siccome stavo usando sempre quello aziendale, niente, non c'è più, ti volevo chiamare ma non ti potevo chiamare, tu non me lo puoi fare, scrivi te la pigli dal QSO. Ma vabbè, qual è il problema? Lo chiamo io ogni sera, quindi non c'è problema, capito? Lo chiamo io, non preoccupate per quello, già lo sai che mi preoccupo anche per le cose tue. Non sono le cose mie, solo che ho già avuto dei problemi, quando là lo sceso giù, perché l'ha avuto scendere giù, si è azzuffato con l'altro, e uno si è svegato, l'altro si è svegato, poi sono sceso la volta sera, il cane era in giro, il suo, l'altro su cui scendere in capo, l'altro la sera per un... Bah, asco, non vuole neanche vuol dire parlare perché c'era da scendere giù e ammazzare a uno e all'altro la verità. Perché non sei tu più così. Lo sa che quello là è così e quindi non lo puoi scegliere un'altra persona in casa sua. Come dire, beh, sei in una casa abitativa, beh, ci metti questo, un ospite, per dire. Non lo vuole, non lo vuole e basta, non c'è più a fare. Oggi l'hanno seccata al collo e lì sono un colpo a mano, oggi mai lascia se è fatto lo vera. Ehi, sto dicendo Mario, oggi, guarda, abbiamo ammazzato alle due e abbiamo ammazzato lo dico io, perché non c'è il resto, non lo vuole. L'hanno ficcato al collo oggi, l'ha messo la zampa sotto, non c'è altro da fare. Si lamenta, non lo vuole, basta. E dice, vai dimmi, buono, lui va arriva, tu non ci fai niente. Beh, oramai tanti anni lì solo, è abituato così. Non sto dicendo, guarda, stamattina io pensavo che ci rimaneva secco quel cane. L'ha musicata al collo, gli ha messo la zampa sopra, gli ha detto cai. E non volete guardare, aspettalo con quel cane di riscola, no? Guarda, stasera l'ho visto in giro per strada, anzi si è liberato, si è lasciato lì com'era, non potevo fare altro, cosa dovevo fare? Sai quanto gli buttato quel giorno? Scende pallone, si allaggia e io non posso fare altro, la verità, perché basta uno, io non posso mettermi i problemi andare lì a separare due persone, la verità, quindi domani gli ho telefonato, guarda che il canetto così è libero e se parlavo sulla faritoria, ecco, basta, non mi metto altro. Ecco, parla. Comunque, appena che poi parlo di uno squillo che così mi appare il numero e niente, me lo memorizzo. Va bene, non c'è problema. Guardi, ti chiamo e mi carico il telefono. D'accordo, riprendi qua là. Come adesso? Che fuggite. Da oggi in poi si è portato in fissa, tu non parli più. telefono. E uno ha fatto il tedesco, l'altro è un che voi ce ne sono così, si vede. Cosa con cosa? Cosa ne sono incrocio c'ha? Nero è. Ma l'Italia piccola, come è tipo un fatto del tedesco o più piccolo? No, lei non parte. Cioè, l'Italia grande dovrebbe essere, perché la verità, per avere 6 mesi quanto ha fatto il tedesco, ma. Solo che busca, quell'altro è più grande, è stato americano, allora. Ah no, comprendo, c'è poco da scherzare. Io vedo gente con pantalone tracciato, quindi so come sono le cose. E il cane che hanno già abituato poi al proprio territorio, è difficile. Dai, dopo il rumo ci sei? Mario, riprendi tu da. Ma già c'è qualcosa, che mai lo si mette la mano, che sto scherzando. Vai avanti nel lavoro di Sabellina, a fare questo. Tu hai una decisione, vai e ti avanti, perché così non rispetto, non possiamo stare. E Luca Maricone, ancora a me? Tu fai un giro? No, per Bogaiese. Pochi bambini, non si dice. Dei pochi bambini. Dani. Io sto facendo ascolto. Un attimo, perché c'è una roba, continuate che dovete ascoltare. Ehi, come si faccia l'esame? Il microfono mai sta esame? No, l'ho amplificato. Ah, meno male. Adesso lo stessi lo bene. Perché questo microfono, se non lo metti vicino, che si è amplificato, si va. Capito. La radio è molto più bassa, è ancora rispetto a prima. No, va bene, vai. Non c'è problema. Diciamo quanto va la radio di Mario, grazie, poverino Mario. Cos'è il problema, Mario? E tutti i danni contro la voce tua, contro la radio tua, Mario. Ehi, Paolo, la radio mia è per sentire un bel rughi. Questo c'è una cosa, Mario. La voce tua, tu la vuoi modificare come se ti piace, ti conoscere tutti. Vabbè, c'è la voce da tua. No, dico, è inconfondibile. Com'è quella di Tino? È una di quelle voci. Se le senti 10.000 ma non la confondi mai, se la di Gianni, sono quelle voci inconfondibili, di qualche lato ti puoi confondere, ma di voi tre è difficile. Ma Gianni c'è la calda però, ma c'è calda Gianni. Ma c'è calda. Vai, ti invito. Ai Gianni, tu si chiami Caminello. Oh, sì. Non vuoi che lo faccio giù con la calda? Sì, aspetta. 23, 18, 25. Quali ci cucciuccia? Pronto, sono Paolo. Ah, il caldo o il freddo, dipende. Chi è? Tu alternata era, chi è? Era basso basso, avanti chi vuole entrare. Chi è che vuole uscire avanti? Io la vuole entrare, entri. E se non facciate la giochinti, se vuoi. Avanti, se vuoi entrare entra, se no fa niente. E la mia Luca di voce con qualcuno si confonde. No. Quanto di riserva? Quanto di riserva? Quello di riserva? Ciao, che sei diversa, io ti mancherebbe, diversa la cosa. Mario, con chi mi confondo io come voce? Ma nessuno, sei confondibile. Visto, c'ho ragione. Chi c'è sotto? Sento gente a parlare io. Sono un camionista. Conoscere un attimo il bianco, come state Sappello? Ciao. Come? Ciao. Tu mi ascolti a me? Bene, sì. Sì, bene, sì, poco fa no, perché sta avvisando il beat. Il beat? Ma sei sicuro? A parte che non... Adesso c'ho il beat. Sì, ma tu poco fa ci avevi il beat, adesso non ce l'hai. Poi capita a volte, quando prendo la parola più del solito, esce il beat e io se la... la fiera, la colpa mia, si sente, io non sento la verità, tu lo senti? Io lo so. E me proseguite, sono ancora in ascolto. D'accordo. Per carità. Che bello c'è a me, Luca? Ma tu lo zeri, Gio Mario. Avanti. Avanti, maestrale. Scusate l'interruzione, comunque, Giovanni. Comunque Claudio, ho sentito anche un altro socio adesso, non so chi era, avanti chi vuole entrare. Giovanni, non riesco a tirarti fuori, comunque se mi ascolti, guarda se puoi fare qualcosa per renderti più comprensibile, perché è quasi zero sei qua. Dammi il 7 Giovanni, aspetta, sì, io li attacco qua. Aspetta Giovanni, gli atto la mano qua del Rosmetto, mi senti? Non mi sente. Oh Massimo, non mi sente, no. Giulia, aspetta, poco fa, verso le... Cioè, non fa. Notte, no, fammelo un quarto all'incirca, il cielo pulitissimo. Ho guardato poco fa, nuvoloso. Domani, meno domani faceva. No, non fa, non fa acqua, domani è buono e domenica ancora meglio. C'è il vento, ti vedi, ti fossi dopo 10 minuti e non c'è più niente. Pappa gappa, andrà bene, andrà bene. Avanti, chi c'è rimasto? Buon Antonio, non c'è più altro riserva. Salvato. Temperature in aumento, domenica un bel tempo. Speriamo che il vento cali un pochettino, così si può andare anche da qualche altra parte, almeno da parte mia, per portare questi bambini in giro, le bambine, che non riesco a portarle mai una volta. Si allunga un pochettino, là, diciamo a fare qualcosa di meglio, perché appena uscivo l'officina era già buio, da dove andare? E almeno non ho tanti di luce, ce l'abbiamo. Chi vuole entrare? Questo prigione adesso avanti. non so chi sia. Riprendi tu, Antonio, se ci sei ancora. Antonio, lasciamo fare, riprendi tu Mario, dai. Ciao, non va a fare il che a una certa ora. Come fantastico, è fantastico. Così questi, dai, sono piccolini, uno sarà 10 anni, deve fare 11 di anni, ma quando sarà, sarà così probabilmente. Commissario, di quelle cose lì ce ne sono tantissime. caso mi danno la risposta affermativa per quella roba là, già ti faccio una bassa, non c'è problema. Ciao ciao, buon proseguo, buon tutto, domani divertitela, visto che sei tutti i giorni casa lavoro. Signori all'ascolto, buonanotte a tutti, ciao Claudio, ciao a tutti. Ciao, ciao.